in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno aperture abbastanza diverse, ognuno sceglie un po' di puntare su uno dei temi considerati centrali ieri oppure oggi. Il Sole 24 Ore ha un'apertura sulle pensioni perché si delinea questo progetto del governo per il riordino con misure che saranno probabilmente valide a partire dal 2017. La cosa interessante, la novità soprattutto per l'Italia, per come era fatto il nostro sistema pensionistico, è la possibilità dell'uscita in anticipo, che naturalmente comporterà un taglio dell'assegno. Trovate tutti gli esempi e tutto quello che questa riforma, questa diciamo ulteriore riforma della riforma, tutte le novità a pagina 3, con anche uno schema che comunque c'è già in pagina 2, proprio in copertina, per dare un'idea di come funziona il nuovo meccanismo delle pensioni. Sempre dalla prima pagina vi segnalo un articolo che poi trovate a pagina 4 con un'analisi di Fabio Pavesi, di Monica De Scienzo e Maximilian Cellino sui famosi NPL, cioè i non performing loans, cioè le cosiddette sofferenze bancarie, cioè i prestiti che le banche hanno concesso ma che si sa quasi certamente non potranno esigere, da qui appunto non performing, cioè che non hanno performance, non verranno restituiti. Il titolo è Banche in calo gli NPL, perché nel quadro complessivo delle sofferenze degli istituti di credito c'è un miglioramento. Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi scende al 4,6%, che è appunto una percentuale molto bassa. La lettera al risparmiatore, come ogni domenica, questo approfondimento di Vittorio Carlini della redazione di Finanza su un titolo quotato che così gli investitori potenziali o magari chi già investe in quel titolo, chi già l'ha in portafoglio può farsi un'idea. Questa settimana il focus è su OVS, il colosso della grande distribuzione che ha numerose insegne dentro di sé, tra cui OVS, Coin e UPIM. Il titolo è Allargare il perimetro, cioè per arrivare al 10% da ricavi esteri, perché OVS in questo momento è leader in Italia, però appunto come molte catene della GDO italiana sono rimaste confinate all'Italia, l'obiettivo è quello di aumentare la percentuale dei ricavi all'estero. Il consueto intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasco Bruno Forte della domenica sul Sole 24 Ore dedicato all'immigrazione, la dignità di chi bussa all'Europa. Il Corriere della Sera titola su una intervista di cui sono state date tante anticipazioni, probabilmente l'avete anche sentito nei GR fin da ieri, un'intervista concessa dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Il titolo scelto dal Corriere della Sera, perché è un po' la vera novità, è Niente tasse per chi investe nelle imprese. E poi tantissimi gli argomenti toccati, l'intervista la trovate poi a pagina 2 e a pagina 3, comprese le pensioni di cui abbiamo appena parlato. La fotonotizia il Corriere della Sera è dedicata alla guerriglia di ieri al Brennero, con il reportage, un commento di Marco Imarisio. I Black Bloc attaccano la polizia, quelli che vengono definiti ormai i pendolari degli scontri, con l'immagine di un Black Bloc appunto con maschera antigas, tutto vestito di nero, sullo sfondo suoi compari con i caschi, che sta per tirare qualche cosa, potrebbe essere una bomba Molotov o qualcos'altro di potenzialmente molto nocivo. La Repubblica ha la stessa fotonotizia, o meglio lo stesso argomento illustrato però da una fotonotizia diversa che vede in questo caso proprio degli scontri diretti tra i Black Bloc e la polizia che cercava di fermarli, guerriglia con i Black Bloc e poi anche una riga subito sotto per ricordare poi questa contraddizione che c'è stata ieri apparente diciamo tra questi scontri al Brennero e poi la dichiarazione in realtà del nuovo ministro degli interni austriaco che ha detto in realtà tutta questa discussione sul muro è un po' inutile perché non abbiamo intenzione di costruire questo muro al Brennero, che è la scusa, perché di questo si tratta, semplicemente una scusa che ha portato i Black Bloc e una serie di altri personaggi a organizzare gli scontri di ieri al Brennero. L'apertura della Repubblica però è dedicata alla notizia che è arrivata da Livorno, indagato il sindaco Grillino e tutti gli scontri politici che ne sono seguiti. Il PD attacca il Movimento 5 Stelle, l'accusa per questo sindaco indagato, lo ricordiamo, è di bancarotta fraudolenta, e la Repubblica poi un'intervista a Rosi Bindi del PD, che è vicepresidente del PD, che dice che la questione morale riguarda tutti. Oh, ma va. E la stampa ha lo stesso proprio titola sugli scontri al Brennero, quindi il titolo è illustrato da una foto, in questo caso una foto ancora diversa, sono dei poliziotti impegnati nello spegnere dei cassonetti ai quali è stato dato fuoco. Il titolo: agenti feriti, black bloc arrestati, e si ricorda anche nel titolo della stampa che sono state bloccate per ora le strade e la ferrovia. In qualche modo la stampa vuole considerare questo evento, quello del Brennero, alla stregua dell'altro grande evento che c'è stato ieri, secondo la stampa, cioè il giuramento del primo sindaco musulmano d'Europa. E quindi proprio nel sommario, un po' strano perché sembrerebbero due notizie completamente diverse, però la stampa le mette insieme e quindi nel sommario di questo articolo fatto di reportage e di commenti sui fatti del Brennero c'è anche appunto una riga dedicata al nuovo sindaco di Londra e anche una foto, perché una cosa particolare, sicuramente una scelta particolare ma anche molto simbolica e forse significativa del sindaco di Londra, è che ha scelto di giurare in una cattedrale cristiana. Infatti in questa foto dietro di lui si vede anche un altro esponente della Chiesa Cattolica. Il Messaggero ha la stessa apertura di Repubblica: sindaco indagato, un caso nel Movimento 5 Stelle, e nel sommario si ricordano un po' alcune delle tantissime reazioni di ieri, in particolare quella di Renzi e Grillini: siete dei campioni di doppia morale. E poi sempre in prima pagina anche un riferimento, lo trovate anche sugli altri giornali, sul Sole naturalmente, sulle novità del fisco, perché c'è anche questa moratoria per agosto. Sappiamo che insomma in agosto ancora l'Italia fa un po' eccezione in Europa, è uno dei paesi dove praticamente un paese che in agosto si ferma, se non altro per le due settimane centrali, moltissime persone sono in vacanza e a volte ricevere le cartelle ricevute in quel periodo, quindi non vengono poi subito pagate, cartelle esattoriali, e quindi una delle novità in questo nuovo corso di rapporto più sereno tra il fisco e i contribuenti, c'è una moratoria per le cartelle che arrivano durante le ferie. Poi tutte le altre novità, pagina 11 del Messaggero. L'Avvenire ha un'apertura ancora diversa, forse qualcuno di voi ha sentito, a me è capitato proprio ieri sera, Raffaella Calandra nel suo storiacce di sentir parlare di ludopatia, il problema che hanno tutte le persone che diventano schiave del gioco d'azzardo. L'Avvenire è in prima linea da tantissimo tempo nella lotta al gioco d'azzardo e soprattutto per esempio nel fatto che moltissime slot machine sono ancora in bar, anche se c'è una legge che lo vieterebbe, vicini per esempio a scuole o a altri luoghi dove ci sono persone forse più vulnerabili rispetto al gioco d'azzardo. In ogni caso l'Avvenire ricorda: ieri mobilitazione in 61 città, lotta contro le slot, è un affare di Stato che rovina individui e famiglie, perché ricordiamo che sul gioco d'azzardo ci sono sempre delle tasse che vanno poi nelle tasche dello Stato, quindi è una grandissima fonte di reddito per lo Stato, che poi però magari deve curare negli ospedali pubblici le persone che poi sono affette da questa ludopatia. C'è stato anche un appello fatto a Mattarella perché vengano sospese le concessioni alle multinazionali. Un'intervista richiamata in prima pagina dell'Avvenire molto interessante a De Scalzi, il numero uno dell'ENI, che dice: senza l'ENI si spegnerebbe tutta la Libia, e spiega come l'ENI abbia ancora tantissimi investimenti in Libia, li abbia avuti in passato, e come questi siano stati anche una leva di sviluppo per il paese. L'Unità, non so, la fotonotizia è un po' pensiero laterale, potremmo dire, perché è dedicata poi a un dibattito che viene approfondito alle pagine 11 e 14 sul 1989, cioè l'anno in cui successero tantissime cose. Il 4 giugno ci fu insomma, la vicenda di Piazza Tiananmen, e poi il 9 novembre del 1989, questa sia una data che forse in tantissimi ci ricordiamo, cadde il muro di Berlino. Il titolo però non c'entra niente con questa fotonotizia, perché il titolo è sulle prossime elezioni amministrative, 1368 sfide in comune. Lo spunto è che ieri era l'ultimo giorno valido per presentare le liste, e quindi appunto l'Unità approfondisce poi questo. Poi c'è un accenno anche al Brennero e un intervento di Anna Maria Furlan, segretaria della CISL, sul lavoro delle mamme, perché oggi l'8 maggio è la festa della mamma, non delle mamme lavoratrici, non delle mamme che non lavorano, ma la festa della mamma, che molti considerano più un'occasione commerciale che non un'occasione di riflessione. Ma si può riflettere comunque, vedremo come in altri giornali ci sono altri interventi. Ci fermiamo però un attimo per la pausa, in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vi segnalo quella de Il Giornale, che è dedicata come la Repubblica e il Messaggero alla quella che viene definita dal giornale la caduta dei forcaioli. Il riferimento è al fatto che il sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle sia indagato, ma che Grillo lo difenda. E quindi scrive il giornale: l'onestà vale solo per gli altri. Una apertura ancora diversa per Libero, che è andato a vedere che cosa sta succedendo a Roma, non solo per la presentazione delle liste, ma anche sul fronte delle assunzioni comunali. E così scopriamo che con le elezioni in vista, ricordiamo, voteremo qui a Milano, a Roma e in tantissime altre città, tra cui Napoli e molti altri comuni, il 5 di giugno. Ecco l'Italia che assume a Roma una super infornata. Il comune ha 12 miliardi di debito, lo ricordiamo, un bilancio falso, ma siccome tra un mese si vota, è pronta l'assunzione di 1.500 autisti, vigili, impiegati e persino insegnanti. Il manifesto ha un'apertura ancora diversa, perché ieri, tra gli eventi di ieri che sugli altri giornali trovate nelle pagine interne, ci sono state le manifestazioni in tutto il paese contro il TTIP, di cui abbiamo parlato anche proprio ieri nella rassegna stampa europea, cioè questo accordo tra un nuovo accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, di cui ancora si sta negoziando, che il presidente Obama vorrebbe chiudere prima della fine della sua presidenza, cioè prima di novembre sicuramente, ma che suscita ancora moltissime perplessità all'interno soprattutto dei paesi europei. Il titolo del manifesto è L'intrattabile, appunto riferimento a questo trattato. In migliaia a Roma per manifestare contro il TTIP, l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti che mette a rischio le conquiste su alimentazione, ambiente e lavoro. Primo successo italiano per un movimento che porta il ministro dell'Agricoltura Martina a frenare dopo Francia e Germania. Nessun blitz sul trattato. In realtà il problema è che noi non sappiamo esattamente a che punto siano le parti più controverse di questo trattato, quelle che riguardano appunto regole che negli Stati Uniti sono molto diverse da quelle che ci sono nell'Unione Europea, per esempio sugli OGM o sulla composizione degli alimenti o sull'etichettatura. Quindi stiamo un po' parlando per indiscrezioni, quello che appunto segnalavamo anche nella rassegna stampa europea, che ci sono alcuni giornali che asseriscono di aver avuto delle indiscrezioni, ma una bozza di questo accordo che si sta negoziando non l'ha vista in realtà ancora nessuno. Il manifesto segnala in prima pagina, ed è l'unico giornale a farlo, che tutte le difficoltà della Grecia, di cui, come dico sempre, forse un po' noiosamente, prima o poi ricominceremo a parlare, perché la Grecia continua a essere in una situazione economica difficilissima e non è assolutamente risolta la questione del debito internazionale che ha. E quindi il manifesto a pagina 7 ci ricorda la Grecia in sciopero su pensioni e fisco. Oggi, tra l'altro, alcune delle riforme verranno votate. In prima pagina della Gazzetta dello Sport ve la segnalo perché, vabbè, naturalmente parla degli anticipi di ieri e soprattutto si concentra su questa indiscrezione che vorrebbe Mancini, l'allenatore dell'Inter, che ieri ha vinto, ma di misura 2-1 sull'Empoli, forse in uscita dall'Inter. L'Inter blinda l'Europa, non ancora il futuro, il tecnico ha dei dubbi, pensa di fermarsi, e poi, vabbè, trovate tutto all'interno. Non c'è neanche un riferimento in prima pagina, anche se poi in realtà con la Gazzetta oggi c'è un magazine, però in prima pagina non ci sono articoli che richiamano questo, perché in realtà oggi c'è un altro grande evento sportivo che inizia e sono gli internazionali di tennis a Roma, che è forse il più importante torneo di tennis, senza forse, che si svolga in Italia. Torniamo alle pagine andiamo alle pagine interne dei giornali. Vi segnalavo la 3 del Sole 24 Ore con tutte le novità sulle pensioni, come funzionerà il meccanismo di ritiro anticipato in cambio di una riduzione dei mensili, gli approfondimenti appunto di Maria Carla De Cesari e Fabio Venanzi, tutta la pagina 3 del Sole 24 Ore. E poi, visto che in questi giorni cominciano ad arrivare le trimestrali, cioè i dati del primo trimestre delle aziende quotate, però entro maggio verranno anche staccate tutte le cedole, e quindi un approfondimento di Vittorio Carlini: effetto tassi zero sulle trimestrali, banche e assicurazioni dell'Unione Europea soffrono i bassi margini, per l'industria minori oneri finanziari. Quindi c'è proprio un confronto tra l'Europa e gli Stati Uniti, cioè sullo Stoxx 600, l'indice che un po' dà un'idea delle borse europee, e lo Standard & Poor's 500 che lo fa per gli Stati Uniti, con le percentuali di crescita degli utili per i vari settori. In Europa quello che è andato meglio sono appunto i titoli industriali, che hanno un tasso di crescita previsto del 134,1%, mentre negli Stati Uniti sono andati molto bene telecomunicazioni, farmaceutici e in generale beni di consumo. Un approfondimento interessantissimo a pagina 17 di Antonella Scott, di una notizia che gli altri giornali così mi sembra di averla vista forse sulla Repubblica, ma è solo una breve. Qui c'è proprio un intero articolo che ci spiega come l'Arabia Saudita abbia licenziato il suo ministro dell'economia, il ministro del petrolio, perché poi in tutto sommato le due cose si identificano per l'Arabia Saudita. Ali al-Naimi era lì al suo posto dal 1995, ora il re Salman dell'Arabia Saudita lo ha sostituito con il presidente di Saudi Aramco, che è la principale compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita. Al via le riforme per diversificare l'economia, quindi possibilmente per diminuire la dipendenza dell'Arabia Saudita dal petrolio, e perché naturalmente negli ultimi mesi l'Arabia Saudita, come moltissime altre economie medio orientali, sono in crisi per via del crollo del prezzo del petrolio. Un bellissimo reportage da Londra di Paola De Carolis a pagina 17 sull'insediamento che dicevamo di Sadiq Khan, il sindaco eletto con percentuale molto alta, quasi il 57% contro il 42% del suo candidato, del suo avversario Goldsmith del Partito Conservatore. Lui è del Labour e ieri si è insediato, ha scelto una chiesa per farlo. Il neoeletto primo cittadino di Londra proclama la vittoria della speranza sulla paura. Un approfondimento, dicevamo, che prende spunto da questa festa molto commerciale che è la festa della mamma dell'8 maggio, che è un po' come la festa del papà, un po' sembra sempre solo un'occasione per fare piccoli regali, ma in ogni caso anche per riflettere se si vuole. E allora vi segnalo il commento di Barbara Stefanelli, che è vice direttore del Corriere della Sera, che io, che mamma non sono personalmente, ho apprezzato tantissimo, perché a un certo punto dice: celebriamo la maternità in ogni sua espressione con la stessa intensità. Le madri adottive, tutte quelle madri che accolgono e a volte raccolgono, le madrine di ogni cultura e religione, le zie che si materializzano come ultima difesa su un improvviso burrone, le nonne che tornano madri per liberare il tempo dei figli e delle figlie, le vicine di casa, le maestre, le professoresse madri di buone idee che restano nelle nostre teste o nei nostri cuori. Festeggiamo sì le madri imperfette o sufficientemente buone, come riuscì a dire benissimo a metà degli anni 70 Winnicott, perché fare la madre, fare i genitori resta l'esperienza, si dice il mestiere, ma sappiamo che non è solo mestiere, più difficile e più imprevedibile, l'esperienza più appassionante, lo spazio senza confini dove sciogliamo il nostro essere stati prima figli e dove ci mettiamo alla prova per tutto quello che siamo, l'esperienza continua di cui non ti penti mai. Il commento appunto di Barbara Stefanelli, unico vice direttore donna del Corriere della Sera, lo trovate a pagina 23, poi c'è di fianco un articolo di Stefania Ulivi. Sulla Repubblica invece un approfondimento di Elena Dusi, che prende spunto da uno studio pubblicato recentemente: spagnoli tiratardi, giapponesi mattinieri, ecco l'Atlante mondiale del sonno. Per quanto riguarda gli italiani, siamo quelli che si svegliano più tardi. A Singapore invece si riposa di meno, e ha questa interessante appunto mappa che arriva da uno studio. Un altro approfondimento, ve lo segnalo, un'altra intervista interessante ve la segnalo dal Messaggero, che a volte fa questi forum. Ricorderete, qualche settimana fa ce n'era stato uno con l'amministratore delegato di Banca Intesa. Questa settimana è un forum che c'è stato al Messaggero con Francesco Starace, che è l'amministratore delegato dell'Enel. Quindi sull'Avvenire trovate un'intervista al presidente dell'Eni, qui invece l'Enel, due delle più grandi aziende italiane. Entro 10 anni l'Italia avrà il 60% di energia pulita. Questa è la strategia sulle fonti rinnovabili, spiegata insieme a tantissime altre cose da Francesco Starace, lo trovate sul Messaggero alle pagine 8 e 9. Dalla Stampa invece vi segnalo un approfondimento sulla prescrizione, che è legato anche alla corruzione. Sapete che la prescrizione è uno dei tanti temi che devono riguardare la riforma della giustizia, che è sul tavolo del ministro Orlando e del governo naturalmente. È uno dei temi più caldi, quello sollevato come primo dal nuovo segretario dell'ANM Camillo Davigo. Ora però, ieri proprio Orlando ha dato alcuni dati e spiegano come sulla corruzione siano aumentati in effetti i reati prescritti, e però ha anche promesso che entro l'estate sarà pronta appunto la riforma della prescrizione, che, lo ricordiamo, è difficile perché c'è il no in questo momento di NCD e del gruppo dei Verdignani. E proprio sopra c'è un'intervista di Marco Mendini al ministro dell'Interno Angelino Alfano, che è anche il numero uno dell'NCD, il nuovo centrodestra. Il titolo di questa intervista: il passato serva da lezione, Renzi stia attento alle toghe. Un titolo veramente un po' impressionante. Ci lasciamo però un attimo per gli aggiornamenti sul traffico, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo nelle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dalla Stampa una pagina intera di Paolo Mastrolilli da New York, che fa un po' il punto sulle primarie americane. Gli altri giornali oggi non ne parlano, forse perché non ci sono stati appuntamenti per le primarie, però sappiamo che si va verso la nomination finale. Per il Partito Democratico sarà quasi certamente Hillary Clinton, per il Partito Repubblicano sarà quasi certamente Donald Trump, ma appunto Paolo Mastrolilli ci racconta il piano dei repubblicani per far perdere Trump. I Bush e i neocon non lo voteranno e sondano alternative. La carta Paul Ryan rimandata alle elezioni, non quelle del 2016, ma quelle del 2020, rispunta l'ipotesi Mitt Romney, che era stato uno dei candidati alle ultime elezioni, quelle che ha poi perso contro Barack Obama, e quindi vedremo un po' cosa succederà alla convention dei repubblicani. Perché, lo ricorda Paolo Mastrolilli, in tutti gli appuntamenti delle primarie Donald Trump ha preso oltre 10 milioni di voti, ed è un numero molto superiore a quello di presidenti, candidati repubblicani che poi sono anche diventati presidenti, come Bush e Reagan. Ma passiamo ai supplementi della domenica, ai supplementi culturali, e iniziamo dalla domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Matrimonio. La citazione è da un libro di uno psicoterapeuta, David Schnark, ed è questa: nessuno è pronto per il matrimonio, ma è il matrimonio che rende pronti. E il commento di Gianfranco Ravasi è: le ironie versate sul matrimonio hanno finito per soffocarlo già a parole, prima ancora che nell'esperienza concreta. Basti solo citare un paio di battute dai Quaderni di Chekhov: se temete la solitudine, non sposatevi. Oppure dai Saggi di Bacone: il saggio, alla domanda su quando sposarsi, risponde: un uomo giovane, non ancora; un uomo adulto o anziano, assolutamente mai. In controtendenza va invece appunto lo psicoterapeuta David Schnark nel suo saggio La passione del matrimonio, da cui è tratta la citazione. Se si aspetta di essere del tutto sicuri e attrezzati per la vita familiare, non si viene mai a capo di una scelta. Certo, prepararsi è necessario, ma poi bisogna fare come nel nuoto: ci si deve gettare in acqua, e lui e lei insieme diverranno pronti per realizzare un'armonia e per crescere insieme. Ma c'è di più, e lo potremmo esprimere con un'altra battuta: marito e moglie, non sprecate le vostre crisi, sono anch'esse preziose per una vita buona e bella. Il memorandum del nostro direttore di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, è dedicato a una visita che ha fatto all'arcivescovado di Chieti. Lo ricordiamo che appunto poi Bruno Forte, l'arcivescovo di Chieti Vasco, è anche un editorialista fisso del Sole 24 Ore alla domenica, e ha pranzato con alcuni giovani, e qui racconta un po' questo contatto diretto con un luogo di fede. Il titolo del memorandum è il pranzo frugale di Suor Maddalena e i giovani di Chieti. Il pezzo di copertina vero e proprio però è un'anticipazione, è una recensione di un libro di Giulio Guidorizzi, Io, Agamennone e gli eroi di Omero, che poi verrà presentato lunedì prossimo al Salone del Libro di Torino, lunedì prossimo il 16 maggio, perché giovedì inizia appunto il Salone del Libro di Torino, il più importante salone dedicato ai libri italiano, e che quest'anno ha come paese ospite, ogni anno c'è un paese ospite, quest'anno sono i paesi arabi in generale, però il Sole 24 Ore ha deciso appunto di raccontare questo libro. Il titolo, Sfidare Apollo, splendida follia, Giulio Guidorizzi racconta l'Iliade dal punto di vista di quel borioso di Agamennone, un esperimento ardito ma perfettamente riuscito, racconta Piero Boitani. Un'altra bellissima recensione è un libro di Anna Maria Ortese, Le piccole persone, appena pubblicato da Adelphi, Animali come noi. È commovente e trascinante il fervore che muove i testi redatti dalla scrittrice in favore delle altre forme di vita, la recensione di Goffredo Fofi. E ancora tantissime anticipazioni su libri che verranno presentati o di cui si parlerà a Torino, dove ci saranno anche naturalmente, come sempre, incontri con gli autori e mostre. Quindi per esempio ancora faccio una segnalazione, visto che oggi è la festa della mamma e parliamo di mamme e di donne, a 70 anni dal voto, un'altra recensione appunto di un libro che anche in questo caso verrà presentato al Salone del Libro di Torino il 12 maggio, Le madri fondatrici, il titolo dell'articolo di Sergio Luzzato. Il libro però si intitola Donne della Repubblica, pubblicato dal Mulino. Sono tracciati 14 profili di personaggi che restano oggi poco conosciuti, dovrebbero troneggiare nel pantheon novecentesco della storia d'Italia. Lo ricordiamo, insomma, sono passati esattamente 70 anni da quando le donne hanno avuto il diritto di voto in Italia. La lettura del Corriere della Sera affida la copertina come sempre a un artista, questa settimana è Rachid Koraichi, e poi il primo articolo molto divertente di Francesco Piccolo, lo scrittore, si intitola Aiuto, il 5 per 1000 mi procura irrimediabili sensi di colpa. Siamo un po' tutti alle prese con la scelta appunto della destinazione nelle nostre dichiarazioni dei redditi dell'8 per 1000 e del 5 per 1000, ma il 5 per 1000 soprattutto è un po' complicato. I giorni dell'anno sono questi: ogni pagina di giornale, ogni cartellone pubblicitario, ogni sala cinematografica, ogni rete televisiva mi chiede, giustamente, legittimamente, doverosamente, la mia quota di tasse per la sua causa. Giusta, legittima, doverosa. La lotta contro una o l'altra malattia, la sopravvivenza di una biblioteca, la cura di un giardino, l'assistenza ai bambini o agli anziani o ai poveri del terzo mondo. Sono tormentato. Ogni anno non so cosa fare. E un po', insomma, questo dilemma forse riguarda tanti di noi. Un altro bellissimo approfondimento che offre tanti spunti di riflessione, un articolo di Massimo Sideri che recensisce alcuni libri, il titolo è Pronto Watson, il call center è un automa. Lo spunto è, si parla di intelligenza, della cosiddetta intelligenza artificiale, che per esempio potrebbe essere applicata ai call center. In corso in Italia i test per impiegare un sistema della IBM appunto di intelligenza artificiale nei rapporti con i clienti, e vedremo se va meglio di quelle surreali conversazioni che a volte si hanno con i call center automatizzati. Abbiamo detto, oggi iniziano a Roma i campionati di tennis, e qui alle pagine 36 e 37 trovate un bel dialogo tra due scrittori, Sandro Veronesi e Marco Missiroli, che raccontano la loro passione per il tennis, amore e erotismo di uno sport letterario che è stato raccontato appunto da tanti scrittori, e che loro raccontano sia dal loro punto di vista personale. A proposito di confessioni di scrittori, la Domenica della Repubblica pubblica un lungo articolo di un lungo diciamo un racconto breve di Ian McEwan, che si intitola Confessioni di uno scrittore. Lo scrittore inglese: sono diventato famoso copiando il libro del mio migliore amico, e non vi dico altro per non rovinarvi la sorpresa. Sono 4 pagine di racconto breve, sicuramente un bel modo di passare un piccolo pezzo della nostra domenica. A proposito di intelligenza artificiale, di tecnologia, di internet, sempre su Repubblica, pagine 36 e 37, il titolo Internet ci rende stupidi, lo spunto è un libro di Derek de Kerckhove, La rete ci renderà stupidi, appunto. Quindi da una parte lui dice no, grazie al web sappiamo più cose, e l'altro libro di Nicholas Carr, Internet ci rende stupidi, che invece dice sì, per colpa sua non siamo più critici. Le interviste straparlando della Repubblica, per le quali Antonio Gnoli ha vinto di recente un premio giornalistico, illustrate come sempre da un bellissimo disegno di Riccardo Mannelli. Questa settimana è Maria Teresa Rodari, la vedova del grandissimo Gianni Rodari. E poi vi segnalo un ultimo articolo dal supplemento del Messaggero Macro, è divertente perché parla di questo caso che viene dalla Francia. Noi al lavoro, ti chiedo i danni. Dipendenti di un'azienda di profumi francesi, Frédéric Desnard ha fatto causa citando la sindrome di bore out, quindi non di burnout, che vuol dire essere bruciati, essersi esauriti, ma bore out, cioè essersi annoiati a morte. Ero occupato 20-40 minuti al giorno, mi sentivo trasparente. Era l'ultima segnalazione di oggi, anche se ci sono ancora, come vedrete comprando i giornali, tantissime altre cose da leggere per chi ha tempo e voglia. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, un ringraziamento in regia a Carmelo Lauricella, che mi ha tenuta quasi perfettamente nei tempi, e ancora appunto una buona domenica da Giulia Crivelli.